Sì, allora io sono Andrea, sono il presidente dell'associazione, che è un'associazione di Prato, che è nata da un gruppo di ragazzi di una parrocchia di Prato, quindi in ambito oratoriale, in un quartiere che vede una presenza numerosa di stranieri, quindi di comunità straniere. È nata un po' appunto da questa realtà, l'esigenza e la volontà di stare insieme, di lavorare con queste persone per l'integrazione. Siamo resi conto che era importante creare socializzazione con le persone del quartiere e quindi ormai da diversi anni organizziamo attraverso lo sport dei momenti di incontro, di conoscenza e qua siamo venuti con una rappresentativa che è nata dopo vari tornei di calcetto che abbiamo fatto nella nostra città. Bene, perché siete venuti a partecipare ai mondiali antirazzisti? Allora, siamo venuti perché ci sembra una bella iniziativa dove possiamo incontrare tante altre realtà simili alla nostra, dove i ragazzi che portiamo, che tra l'altro quest'anno vengono dal Marocco, dal Gambia, dal Mali, possono anche incontrare persone, ragazzi che vengono dal proprio paese, quindi per loro è anche un momento importante, no? Di incontro con le origini. Ecco. Poi insomma è bella, è una bella iniziativa perché mette insieme veramente tante culture, tante realtà diverse che però hanno tutte lo stesso finalità, insomma, lavorano tutti per l'integrazione. E noi siamo contenti di poter essere qua. Bene, quale messaggio potete lasciare agli altri partecipanti? Allora, sicuramente questa è un'occasione di incontro, cioè di conoscenza. Incontro ma con la diversità. La diversità che non è un problema, ma che è una ricchezza, che è un valore. Per cui sfruttare questi momenti per capire che l'importanza è, ecco, di conoscersi, di non aver paura di chi è diverso da noi, che in fondo siamo da questo punto di vista, attraverso lo sport, veramente ci sentiamo tutti uguali.